Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Forse ricorderete che qualche mese fa abbiamo dedicato una nostra puntata, che tra l'altro è stata molto seguita, a Franca Viola, la ragazza siciliana che nel 65 venne rapita, venne violentata da un suo ex fidanzato respinto, membro di una potente famiglia mafiosa. Ve lo ricordate? A parte che ne parlò tutta l'Italia. Lei rifiutò il matrimonio riparatore e il suo violentatore, il suo rapitore, venne condannato a 11 anni di carcere. Insomma, Franca Viola è diventata negli anni 60 il simbolo della libertà, della dignità per tutte le donne violentate che rifiutavano il matrimonio riparatore. Il suo coraggio portò all'abrogazione dell'articolo del codice Rocco, il codice penale datato 1930, che classificava gli atti di violenza sessuale come delitti non contro la persona ma solo contro la moralità pubblica. L'articolo ammetteva il matrimonio riparatore e il violentatore poteva estinguere il reato sposando la persona offesa. Insomma, vi dico tutto questo perché la storia che vi stiamo raccontando ha per protagonista una donna che è stata una delle prime pittrici importanti della storia, ma anche un simbolo del femminismo internazionale. Una donna eccezionale, tanto quanto l'è stata Franca Viola, che ha dimostrato il suo coraggio in tanti frangenti, soprattutto in quello, ma anche lei è stata violentata a 17 anni, anche il suo violentatore frequentava la sua casa, come Filippo Melodì, insomma grandi analogie. Anche lei si ribella, preferisce sottoporsi a un terribile processo piuttosto che accettare passivamente la violenza. Però c'è solo un piccolo particolare che rende la nostra vicenda ancora più straordinaria di quella di Franca Viola. La nostra protagonista si chiama Artemisia Gentileschi, è una grande pittrice della scuola caravaggesca, e i fatti narrati, ed è qui la forza di questo racconto, i fatti narrati sono del 1611, 350 anni di storia separano queste due ragazze, eppure c'è un senso comune di dignità e di rispetto che le avvicina. Hanno avuto gli stessi pensieri probabilmente quando hanno deciso di non passare sopra un delitto così grave, quando hanno capito che la loro persona aveva più valore del pensare comune. Orazio Gentileschi de Lomis è un pittore caravaggesco che si trasferisce da Pisa a Roma e lavora come artista presso le imprese decorative papali. L'8 luglio del 1593 viene svegliato dai lamenti della moglie Prudenzia, che aspetta il loro primo bambino. E Orazio chiama a gran voce le donne di casa, esce come una furia, non vuole assistere al parto perché ha paura. La residenza dei Gentileschi, peraltro, si trova a Roma in via di Ripetta, presso una chiesa, la chiesa di San Giacomo degli Incurabili. Orazio si rifugia lì a pregare. Sua moglie ha deciso di fargli un regalo speciale. Partorisce proprio il giorno del suo compleanno. È ancora più speciale l'evento quando si scopre che è nata una bambina, e lui non la pensa come tanti che in quegli anni cercavano a tutti i costi l'erede maschio. Lui sente che questa bambina gli darà grandi soddisfazioni, e in effetti è così. La chiamano, insomma nel 600 i nomi belli erano un po' diversi da quelli di oggi, tipo Chanel, nomi così fantastici, allora la chiamano Artemisia. Lei adora la pittura e passa tutto il suo tempo nello studio paterno, apprendendo le raffinate tecniche di Orazio Gentileschi. Vedi, Artemisia, tu ed io non apparterremo mai a nessuna scuola. Perché dunque dovremmo porci dei limiti? E lui tiene la figlia sulle spalle mentre dipinge. Lei è al settimo cielo, non si stanca mai per stare col padre, non va a scuola, non impara né a leggere né a scrivere, lo farà molti anni dopo, però sa tutto di pittura, capisce i segreti del grande pittore, comincia a capire gli equilibri delle strutture, le misure, le proporzioni. I suoi occhi vanno dai quadri al volto adorato del padre, che le trasmette tutte le conoscenze di cui è maestro. Non è fondamentale per Orazio che la bambina comprenda tutto, non fa appello alle sue conoscenze ma al suo istinto, e lei si nutre di questa complicità col padre, ne fa tesoro per tutta la vita, ricordando ogni momento di questa sua felicissima e delirante infanzia. Arriva però un fatto drammatico a modificare la vita dei Gentileschi. La madre muore di parto, lasciando Artemisia sola donna di casa a 13 anni con 3 fratellini piccoli. «Debbo badare alla casa, et ai fratelli, et fare il mangiare per tutti, anche i lavoranti del padre mio. O la famiglia o il convento, ecco ciò che tocca a noi donne. E ora che ho io gli affari della casa, sono una donna oramai, la pittura, che è la mia vita, è luogo oscuro et sotterfugio». Artemisia fa molto presto i conti con la mentalità dell'epoca, nell'ambiente artistico romano, tra i lavoranti del padre, insomma tutta la sua presenza dà veramente scandalo. Comunque considerata una anomalia, è una eccezione che la pone in una condizione diversa rispetto alle sue coetanee. Per noi una femminista antelittera magari, però per l'epoca è solo un'anticonformista scomoda e petulante, soggetta a molte critiche. Peraltro è anche molto bella e quindi questo complica le cose. Lei non si cura di tutti quegli uomini che le girano per casa e che la ammirano, la riempiono di avance, di proposte più o meno spinte, sentendosi in diritto di farlo solo perché lei è così strana e così diversa dalle altre, quindi malinterpretando il suo senso di autonomia. Lei tutto questo non interessa, lei vuol dipingere e il padre capisce che un'inclinazione come quella non può essere ignorata. Lei è davvero brava, anche se è una ragazza, insomma, merita di entrare all'Accademia delle Belle Arti. Il falco e il gabbiano. Orazio Gentileschi è un valente pittore del filone caravaggesco, il gruppo di artisti che in epoca barocca sono fortemente influenzati dal grande Michelangelo Merisi, detto appunto il Caravaggio, un artista molto considerato, ha dei giovani allievi, sa riconoscere il genio artistico. Insomma, Orazio Gentileschi ha capito che in sua figlia Artemisia il genio esiste ed è prepotente. Per questo, nonostante lei sia una ragazza, vuole tentare qualcosa di mai accaduto, vuole farla entrare all'Accademia delle Arti di Roma, che è riservata ovviamente solo ai pittori uomini. È un momento cruciale della vita della giovanissima pittrice, è raccontato peraltro in una scena toccante del film Artemisia, Passione Estrema, diretto dalla regista francese Anne Merlet e nel 97 interpretato da Valentina Cervi. Vi ho portato i disegni. Di vostra figlia, certo. È un prodigio, lei sorpassa tutti gli altri, brava com'è. Ma non è posto per una donna all'Accademia. Io vi dico che dipinge come un uomo. Già, ma non è un uomo. Cosa ci fai qui? Il suo lavoro parla per lei. Viene a trovare qualcuno. Guardate come ha reso la torsione del polso. Capitemi, signore, non ci può essere la raccomandazione migliore di Orazio Gentileschi, tuttavia. La risposta è negativa. Artemisia non può entrare nell'Accademia perché è una donna. E lei comincia a sentir crescere dentro di sé una rabbia che non potrà mai dimenticare nella vita. Possibile che il suo talento vada sprecato solo perché è una donna? Lei non si dà pace di quella che ritiene giustamente un'ingiustizia, un sopruso. E Orazio è addolorato ancora più della figlia, perché conosce perfettamente il valore artistico di lei, sa che la ragazza ha bisogno di altri maestri, però nessuna scuola l'accoglierà mai perché è una donna, nessuno prende per allieva una ragazza. Però poi ha una folgorazione, gli viene in mente qualcuno. Mi dicono essere tipo spregiudicato, occhi neri et capelli ricciuti et corpo aggraziato. Fa gran usanza di belle camicie e di belle parole. E con me al casino delle muse, in Palazzo Rospigliosi, porrà sua opera. Eh sì, perché lì vicino c'è il Palazzo Pallavicini Rospigliosi, che viene costruito per volere del cardinale Borghese, nipote di Paolo V, è una meravigliosa dimora a lato della residenza papale. Sono moltissimi gli artisti che ci lavorano. Orazio Gentileschi viene affidato l'affresco del Casino delle Muse, lui realizza i personaggi mentre i paesaggi e gli sfondi vengono commissionati a un maestro delle prospettive, un artista appena giunto da Livorno. Segnatevi questo nome, si chiama Agostino Tassi. Proprio a lui Orazio Gentileschi pensa come possibile maestro per sua figlia. Questo è l'errore chiave che dà il via alla seconda parte della nostra storia. Ascoltate intanto come il professor Luciano Berti, storico dell'arte, descrive nel suo libro Artemisia Agostino Tassi. Uno smargiasso, un avventuriero, un soggetto da galera, un ostentatore di gran tono e un intimo dei potenti. E lo definisce addirittura un puttaniere capace di circuire le persone col proprio carisma, insomma l'ultima persona a cui affidare una figlia femmina. Però Orazio Gentileschi non se ne accorge, gli dà fiducia, gli è simpatico. Ma chi è veramente questo Agostino Tassi? È originario di Perugia, dimostra un talento molto precoce, da ragazzino viene spedito in Toscana come garzone di bottega di alcuni pittori manieristi. Dipinge in uno strano modo, tutto storto, i suoi maestri lo indirizzano subito al quadraturismo, che è un genere pittorico tipico del Rinascimento e del Barocco, che utilizza il trompe-l'œil e la prospettiva per creare l'illusione di uno spazio tridimensionale su una superficie che in realtà è piatta. Il fatto di creare illusioni, di dipingere un bel cielo azzurro con le nuvole su un soffitto, una statua che non c'è, una cupola altissima dove il tetto in realtà è basso, influenza molto la personalità di Agostino. Insomma, è un pittore bugiardo perché vuole dare delle illusioni che non ci sono, e diventa bugiardo anche nella vita, o forse è sempre stato un bugiardo. È in gamba, è molto bravo, è un pittore di grande ingegno, ha un carisma straordinario, il suo potere sugli altri è il potere dell'arte, però è anche un affabulatore e con le donne è irresistibile. E così Artemisia e Agostino Tassi si conoscono a Palazzo Rospigliosi. Lui la guarda subito con molto interesse. Lei spera solo che lui voglia insegnarle ciò che sa e pensa di essere stimata per la sua bravura, e il padre Orazio le ha confidato il suo pensiero. Non è riuscito a farla entrare all'accademia, pensa proprio a lui come maestro per la figlia. In fondo lei ha ampiamente dimostrato di essere in grado di dipingere i corpi, i nudi femminili, che copia guardando se stessa, ma non ha alcuna conoscenza delle prospettive. Il Tassi può essere prezioso per lei. E sì, ma qui stiamo andando in bocca al mostro. La ragazza racconta mesi dopo i suoi primi contatti con Agostino Tassi. Mio padre, avendo amicizia strettissima con il detto Agostino Tassi, il quale, per essere amico, cominciò a praticare in casa e a persuadermi che era un giovane garbato, galante, e che saremmo stati bene insieme. E così Agostino inizia a tessere la sua tela attorno a Artemisia, la istruisce come ha chiesto molto ingenuamente il padre, e lei ha una grandissima abilità, personalità rara in una donna a quei tempi, però purtroppo per lei è anche molto bella e molto desiderabile. Lui è un pittore raffinato, e così Agostino ha in mente ben altro, va molto avanti rispetto al desiderio di insegnarle a dipingere. La guarda dipingere, però in realtà i pensieri, i sentimenti vanno altrove. Lei non ha sospetti perché le viene data la possibilità di esprimersi, non deve solo accudire i fratellini, cucinare e lavare, può studiare, avere un maestro, e questo per lei è Agostino Tassi, il maestro, il tramite per raggiungere la sua arte. Ben diverso è per lui invece, più che alla spirituale iniziazione artistica della giovinetta, lui pensa a un'altra iniziazione molto più terrena. Il falco e il gabbiano. Stiamo facendo un salto indietro nel tempo di 400 anni perché vi stiamo raccontando una storia molto anche violenta, ambientata nel mondo dell'arte e della pittura. Siamo nel 1611, è ovviamente un'epoca nella quale le donne sono solo mogli, madri, casalinghe, tutto al più amanti, ma certo non possono aspirare a professioni riservate agli uomini. Quelle donne che non rispettano questa consuetudine vengono considerate delle poco di buono, quando non vengono considerate delle streghe, e ci arriveremo. La nostra protagonista Artemisia Gentileschi è bellissima, però è dotata di grande talento artistico, ha la passione per la pittura ereditata dal padre, il famoso pittore Orazio Gentileschi. ha una grande sensibilità, una capacità artistica eccelsa. Ascoltate cosa dice, cosa scrive il Gentileschi alla Granduchessa di Toscana Cristina di Lorena. Questa femmina, come è piaciuto a Dio, avendola drizzata nella professione della pittura, in 3 anni si è talmente appraticata che posso a dir de dire che oggi non ci si appare a lei, avendo persino adesso fatte opere che forse i principali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere. Il padre di Artemisia, Orazio Gentileschi, vuole che la figlia impari veramente l'arte, vorrebbe iscriverla a una scuola, non può farlo perché lei è femmina, la affianca Agostino Tassi, grande maestro di prospettiva, e non si rende conto che ha messo il fuoco vicino alla paglia, perché Artemisia è giovane, bella, brucia di passione per la pittura, mentre Agostino Tassi brucia sì di passione, ma di passione per lei, è un grande ammiratore delle donne, si invaghisce di Artemisia, decide di averla a tutti i costi. L'occasione arriva il 6 maggio 1611. In casa Gentileschi non c'è nessuno tranne Artemisia, che sta dipingendo. In realtà non è sola, perché c'è anche Tuzia, una giovane alla quale il padre ha affittato un appartamentino sopra la loro casa. È l'unica donna che Artemisia frequenta, perché è circondata dagli uomini, e improvvisamente la porta della camera di Artemisia si spalanca, appare Agostino Tassi in uno stato di evidente eccitazione e comincia a dirle: basta, basta dipingere Artemisia, basta dipingere. Immaginate la scena, lui sta di fronte a Artemisia che ha in mano la tavolozza dei colori e la ragazza non capisce perché lui sia così alterato, non ha paura, sa di non essere sola in casa, arriva Tuzia, Artemisia le chiede di condurre fuori il maestro, ma l'altra risponde che non le va di mischiarsi, scompare, Artemisia comincia a sentirsi inquieta, non c'è nessuno adesso a casa, lui si fa sempre più vicino, non sa che intenzioni abbia, dice che si sente male, glielo dice 3 volte, teme di avere la febbre e lui le risponde che ha più febbre di lei e chiude la porta a doppia mandata. Mi buttò sulla sponda del letto. Mi mise un ginocchio tra le cosce che io non potessi serrarle. Ed alzandomi i panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano alla bocca con un fazzoletto a ciò non gridassi. Poi, avendo messo tutti 2 gli ginocchi tra le mie gambe ed appuntandomi il membro alla natura, cominciò a spingere e mi faceva gran male, che per lo impedimento che mi teneva alla bocca non potevo gridare. Pure cercavo di strillare meglio che potevo, chiamando Tuzia. Artemisia è disperata, lotta, cerca di urlare, non ci riesce, si divincola, l'uomo è più forte di lei. Insomma, è stata violentata, presa con forza nella sua stessa casa e non può accettarlo. Sente dentro di sé la forza della disperazione, si alza, afferra un tagliacarte e va verso Agostino, lo vuole ammazzare. L'uomo si allarga la camicia offrendole il petto in un gesto plateale, lei lo colpisce ma solo superficialmente, il sangue di lui cade sulle lenzuola bianche e sarà per lei un ricordo indelebile che mille e mille volte dipingerà negli anni successivi sulle sue tele. Sconvolta scoppia a piangere, Agostino, diventato dolce e affettuoso, la consola, le fa una promessa solenne, le parole che pronuncia sembrano sincere: datemi la mano che vi prometto di sposarvi. Voglio serbare sulla bocca il vostro sapore, mio topazio di fuoco, mio velluto nero, mia coppa d'oro, mio veleno. Insomma, Artemisia è confusa perché quell'uomo ammaliante la sta chiedendo in sposa. Lei sa bene che il matrimonio è l'unico mezzo per riabilitarsi nella società e per cancellare l'onta della violenza e l'impurità che da essa deriva. Dovrà sposare Agostino che l'ha appena violentata. Si sta domandando se sia giusto e si ribella nel suo intimo a questa sopraffazione, però allo stesso tempo è attirata anche da quell'uomo che l'ha violentata, perché è un grande pittore, la sta corteggiando e poi a questo punto le ha promesso di sposarla. Insomma, lei sostituisce nel suo cuore il rancore con qualcosa di diverso, forse addirittura si invaghisce, decide di tacere la violenza e di non raccontare niente al padre. Questa promessa di matrimonio mi ha indotto a consentir dopo amorevolmente più volte alle sue voglie. Quindi tra i due inizia una tresca che a un certo punto viene scoperta dal padre, che è un uomo intelligente o crede di esserlo, perché invece di arrabbiarsi con Agostino Tassi immagina un miglioramento per la sua situazione familiare, sogna di aprire col futuro genero uno studio più grande, di prendere commesse importanti, di realizzare opere grandiose, sogna di far lavorare con sé anche la figlia. Insomma, sembra che tutto si stia sistemando. Peccato che tutti i sogni di quel padre e di quella figlia che ormai è innamorata non si realizzeranno. Perché? Perché un giovane pittore appena arrivato da Livorno li informa che Agostino Tassi in realtà è già sposato con una certa Maria Connodoli. Non solo, è sotto processo per una relazione con la sorella della moglie. Per Artemisia è la fine, il mondo le crolla addosso. Beatissimo padre, questo è un fatto così brutto e commesso in così grave et enorme lesione et danno del povero oratore et massime sotto fede di amicizia, che del tutto si rende assassinamento et anco commesso da una persona solita commettere delitti peggio di questo. Genuflesso alli sua santi piedi la supplica in visceribus Christi a provvedere in così brutto eccesso con li debiti termini di giustizia contro a chi si spetta. È la svolta, un colpo d'ala complicato, perché questa è la lettera scritta da Orazio Gentileschi al Santo Padre, a Paolo V, chiede giustizia per sua figlia Artemisia, e il pittore sa bene cosa significhi rivolgersi al tribunale del Sant'Uffizio, sa cosa vanno incontro lui e la figlia, perché il tribunale della Santa Inquisizione Romana, che è stato istituito nel 1542 da Paolo III, deve vigilare sulle questioni della fede, deve difendere la Chiesa dalle eresie. Insomma, stiamo parlando di Santa Inquisizione, che ha diverse diramazioni in Europa. La più tremenda è quella spagnola, che era guidata dal monaco domenicano Tomás de Torquemada, conosciuto per le sue terrificanti torture. Insomma, qui non si scherza. Tra i processi più famosi ci sono quelli di Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Galileo Galilei. Al Sant'Uffizio però ci si rivolge anche per questioni legate alla morale, agli abusi sessuali, per ottenere giustizia da un tribunale che è considerato al di sopra di quelli laici. È al tribunale del Sant'Uffizio che si rivolge Orazio Gentileschi. Io ho toccata e vista nella natura domina Artemisia, che sta qui presente, quale vostra signoria m'ha ordinato ch'io vedessi, e dico che ella non è zitella, e questo io conosco per le esperienze che in simil cosa ho, essendo stata io mammana da 10 a 11 anni in qua. Questa è la deposizione della levatrice che viene incaricata dal tribunale della Santa Inquisizione di visitare Artemisia per confermare la violenza sessuale. La levatrice può solo testimoniare che Artemisia non è più illibata, non può dire se ha subito o meno una violenza. Sono passati molti mesi e nel frattempo la ragazza, peraltro, ha avviato anche una relazione stabile col Tassi. Lui si scagiona, dice che lei era consenziente, cerca addirittura di screditarla, è verme fino in fondo, fa i nomi di alcuni pittori che sarebbero stati suoi amanti, porta dei testimoni che per fortuna appaiono poco attendibili. Insomma, la situazione è veramente ingarbugliata, fa fatica la verità a venire a galla. Se Artemisia è una ragazza facile, non si può certo parlare di stupro. Lei ascolta le parole dell'inquisitore Francesco Bulgarello. Com'è possibile che lei, che è la vittima, lei che ha intentato la causa contro Tassi per ottenere giustizia e recuperare l'onore perduto, debba essere definita una ragazza facile? Per i giudici della Santa Inquisizione c'è un solo modo per scoprire cosa sia successo veramente: la tortura delle Sibille. Questa promessa di matrimonio anco me l'ha più volte riconfermata. E quando io dopo ebbi notizia che lui aveva moglie, mi dolsi di questo tradimento. E lui sempre me l'ha negato, dicendomi che non aveva moglie, e sempre m'ha confermato che lui solo m'aveva amata. E questo è quanto è passato tra detto Agostino e me. La situazione è terribile. Artemisia Gentileschi seduta al centro del grande salone dell'Inquisizione romana. È un luogo che fa tremare solo a nominarlo. Alle pareti una lunga fila di scranni sui quali siedono gli alti prelati del Sant'Uffizio. Accanto a lei il boia. Lei ha paura, soffre, non può cedere perché lei la verità l'ha detta. Agostino Tassi l'ha violentata, nessuna tortura le farà mai ritrattare la sua deposizione. Morirà tra atroci dolori piuttosto che perdere il suo onore. Le dita delle mani le sono state legate con dei lacci di cuoio e che le vengono stretti, le provocano un dolore lancinante, lei sanguina, le sue belle mani che per una pittrice sono lo strumento della sua arte sono compromesse per sempre. Improvvisamente però l'inquisitore la fa liberare. Per lui la ragazza sta dicendo la verità. Io, giudice Gerolamo Felice, guidato dalla santità di Nostro Signore, condanno Agostino Tassi a anni 5 di lavori forzati. Ho in sua scelta la cacciata dall'urbe romana. È il 27 novembre 1612. Agostino Tassi viene condannato per la deflorazione di Artemisia Gentileschi, la corruzione dei testimoni e la diffamazione del padre di Artemisia Orazio. Giustizia è fatta. Agostino sceglie l'esilio, non viene mai reso esecutivo però a lasciare Roma, invece lei, perché alla fine è lei che comunque paga. Due giorni dopo la sentenza viene data in sposa dal padre al pittore fiorentino Pierantonio Stiattesi e insomma le viene restituito uno status di onorabilità. Bisogna andarsene però. La sua vita comunque prosegue in maniera positiva, ha quattro figli e viene ammessa finalmente all'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze. È la prima donna che godrà di questo privilegio. Roberto Longhi, famoso storico critico d'arte, scrive nel 1916 un meraviglioso saggio su Artemisia, dove esalta la sua grandezza di pittrice, analizza il suo quadro forse più noto, Giuditta decapita Oloferne, che rappresenta il momento estremo della vicenda della giovane ebrea Giuditta che salva il suo popolo dall'invasione degli Assiri decapitando il loro generale Oloferne, attirato dalle sue grazie, come sempre. Giuditta che decapita Oloferne. Chi penserebbe che sopra un lenzuolo studiato di candori e ombre di acce degne di un Vermeer a grandezza naturale dovesse avvenire un macello così brutale ed efferato? Ma mi voglia di dire, ma questa è la donna terribile? Una donna ha dipinto tutto questo? Eh sì, una donna ha dipinto tutto questo perché era una donna grande, coraggiosa, che ha conosciuto la paura e il senso di umiliazione che una donna può provare se viene violentata e la rabbia che ne consegue. È una donna che con la sua pittura ha saputo veramente volare in alto, al di là delle difficoltà e delle ingiustizie e dei soprusi subiti. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno. Ognuno può cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala e può volare in alto, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al sito www.radio24.it, al falco e gabbiano @radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social, nei nostri social, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Insomma, lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a domani.